Questa bestia di soldato, mio signor, non ha trattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, non ha trattato. Questa bestia, mio signore, questo caso l'ha trattato. Sì, signor, sì, signor, questo caso l'ha trattato. Mio padre, mio signore, questo caso l'ha trattato. Sì, signor, sì, signor, questo caso l'ha trattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, questo caso l'ha trattato. Sì, signor, sì, signor, questo caso l'ha trattato. Io sapessi che signore, io sapessi che signore, questo caso l'ha trattato. Presto!